Ma lei, per concludere, teme qualcosa? Nei prossimi giorni ci saranno gli espropri dei terreni e i manifestanti hanno già detto o ci incateneremo o faremo resistenza passiva. Teme che ci possa essere una situazione... Guardi, non spetta a me né temere né prevedere né valutare quel che potrà... C'è un brutto clima però, questo sì. Ma la manifestazione di domenica è stata una manifestazione finalmente pacifica, senza... accettare intrusioni di personaggi violenti provenienti da ogni parte d'Italia che molte volte e giustamente vengono definiti professionisti della violenza. Poi la sera a Torino c'è stata, qualcuno non ha resistito e ci ha dato dentro. Succederà qualcosa? Cioè ci sarà qualche provvedimento? Non lo so, mi auguro francamente di no. Mi auguro, l'ho già detto alcune volte e lo ripeto, che in valle si possa ristabilire o stabilire un clima di sereno confronto dove le reciproche posizioni serenamente siano dibattute in contraddittorio gli uni con gli altri, rispettosamente gli uni degli altri, e che sia alla fine di questo confronto, di questo dibattito, qualcosa fosse tolto alla valle, alla valle sia restituito almeno l'equivalente, se non di più. In ogni caso, per una cosa di cronaca, non ci sono stati fermi ieri dopo l'incidente alla stazione? Ieri domenica cos'è successo? Non mi risulta... No, alla stazione, qualche lancio di sasso alla stazione. Ah, questo ancora sabato sera, chiedo. Sì, certo. Non lo so, non credo, ecco. Ho letto sui giornali, ma so soltanto quello che ho letto sui giornali, non so niente di più di diverso. Di un poliziotto ferito, però non so neanche come, perché, quale gravità e via seguitandola. Ripeto, rispetto alla manifestazione imponente della Valle di Susa che si è svolta con... Questo sì. Ho letto addirittura che c'erano alcuni manifestanti con dei cartelli "no alla violenza, sono con Caselli". È vero. Questo l'hanno riportato soltanto pochi giornali, però mi sembra estremamente significativo. E di Caselli praticamente per fortuna non si è parlato, perché il problema non è Caselli, il problema è la violenza e il movimento che deve prendere le distanze dai violenti, perché è stato detto autorevolmente, mi sembra di poterlo condividere, altrimenti fa del male a se stesso. Se ha ragione, in questo modo si mette dalla parte del torto. Un'ultima cosa, Flash, procuratore, lei l'incontrerebbe, perché c'è stato l'invito, incontriamoci, vediamoci, i leader di Notavi, i rappresentanti, ovviamente quelli pacifici che sono la stragrande maggioranza, l'incontrerebbe? Non vedo che titolo, che ruolo abbia io per incontrare qualcuno che porta avanti delle rivendicazioni giuste o sbagliate, ma che non hanno niente a che vedere con le mie competenze. E forse aiuterebbe forse... Per discutere se i magistrati, quando vedono commettere dei reati, si devono voltare dall'altra parte oppure devono fare il loro dovere. Se vogliamo discutere di questo, padronissimo. No, però forse sarebbe un gesto simbolico per svelenire anche questo clima, per allentare, magari, sa, a volte anche i gesti, anche gli incontri simbolici. Se qualcuno vuole organizzare qualcosa di serio, volentieri, ma qualcosa di serio. Non qualcosa come è successo a Bussoleno, per esempio, non più tardi di una settimana fa, tre palle e un soldo da tirare sulle effigie di Caselli, Fassino e altri personaggi, invitando i bambini a fare questo. Se sono questi i personaggi che vogliono organizzare un dibattito, beh, non ci credo, questi non vogliono fare un dibattito, questi vogliono, ripeto, in un modo o nell'altro cercare l'impunità, mentre le leggi italiane valgono per tutti, la legalità non è un paio di ciabatte che uno indossa quando gli va bene. Azioni contro la mafia, contro la 'ndrangheta, ThyssenKrupp, Eternit, per parlare del mio ufficio di procura, mala sanità, tentativi, assalti con abbruciamenti alle baracche dei Rom alla periferia di Torino e via seguitando. E queste ciabatte, la legalità, non si indossano più invece quando danno fastidio, non fanno più comodo. I gesti di gravissima violenza, come sta scritto anche nell'ordinanza del GL, giudice terzo, ripeto ancora una volta, non è un pubblico ministero che parla, è il giudice terzo, tutela della libertà dei cittadini, allora qui la legalità non va più bene, possiamo sospenderla, per favore.